Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, quante famiglie negli ultimi anni hanno comprato casa? Migliaia e migliaia, decine di migliaia, a volte sottoscrivendo anche impegni finanziari piuttosto ampi per dimensioni, anche piuttosto lunghi. E quante volte la banca che ci ha concesso il mutuo, ha chiesto di abbinare a questo una polizza assicurativa? Allora, succede sempre, solo che a volte, e questa è in questo momento la contestazione più forte che viene mossa al mondo bancario, l'abbinamento avviene in modo non chiaro, in modo obbligatorio. A qualcuno non viene spiegato perché bisogna associare la polizza assicurativa al mutuo, anche perché va detto che spesso ci si ritrova a dover firmare il contratto di assicurazione proprio durante la stipula del mutuo e la firma del rogito davanti al notaio, quando non c'è alcuna possibilità di contestare nulla, o meno, o almeno ci sarebbe anche, ma non siamo proprio nelle condizioni emotive di poterlo fare. Oppure, peggio ancora, la banca ti dice: guarda, se non sottoscrivi la polizza con noi e quella che ti diciamo noi, il mutuo o il prestito non te lo diamo. Allora, tutta questa situazione, che è forse un po' più complessa di come l'ho presentata, ha portato l'ISVAP, l'autorità di controllo del mercato assicurativo, ad emanare un regolamento che dal 1 dicembre vorrebbe impedire alle banche di vendere polizze legate a mutui e prestiti. Il sistema bancario naturalmente non ci sta, è ricorso al TAR del Lazio, che ieri si sarebbe dovuto pronunciare su questo regolamento ISVAP. Di fatto dal TAR non abbiamo ancora nessuna notizia, probabilmente notizie arriveranno nei prossimi giorni, ma noi stamattina abbiamo ritenuto utile fare un punto della situazione per capire da cosa è stata generata questa situazione che va avanti da 3 anni, da quando sono state emanate le famose lenzuolate di Bersani, quelle sulla portabilità del mutuo, per esempio. Allora, ne parleremo stamane con intanto la nostra Federica Pezzatti di Plus 24 del Sole 24 Ore, che sabato scorso ha curato la storia di copertina di Plus 24, proprio dedicata a questo argomento. Federica, ciao. Buongiorno a tutti. E abbiamo reinterpellato la dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore generale dell'ISVAP, appunto l'autorità di controllo sul mercato assicurativo italiano. Dottoressa Mazzarella, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno. Naturalmente, microfoni aperti agli ascoltatori, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, per scriverci 349 238 6666. Mercato azionario europeo stamattina, dopo i forti rialzi di ieri, oggi seduta di consolidamento dei guadagni, appunto, della seduta precedente. Parigi più 0,06%, Francoforte più 0,51%. Oggi la piazza tedesca sembra piuttosto vivace rispetto alle altre. Cede terreno leggermente adesso Londra, meno 0,29%, Milano più 0,07% sul FTSE MIB. Oggi il mercato è soprattutto movimentato nell'ambito valutario, tanto per cambiare, ormai questo è diventato il cavallo di battaglia dei mercati finanziari delle ultime settimane, perché, come avete sentito, con questa mossa a sorpresa per dare un po' un segnale di riequilibrio sul mercato delle valute, la Banca Centrale di Singapore stamane ha deciso di ampliare la banda d'oscillazione della divisa locale, il dollaro di Singapore appunto, per così consentire questa rivalutazione graduale della propria divisa. Questa decisione ha innestato appunto questa sorta di rimovimentazione per riequilibrare un po' la situazione, e chissà se quella che si è generata in questi minuti è una situazione di equilibrio o meno. Di fatto l'euro si è riportato sui massimi da 9 mesi sul dollaro, oltre la soglia di 1,41, il dollaro continua a testare nuovi minimi da 15 anni sullo yen, e questo è un elemento, appunto, questa debolezza del dollaro che ha portato sui massimi di nuovo le materie prime, ormai sugli $85 al barile, il Brent a Londra, il greggio di riferimento europeo, e l'oro a $1386,90 l'uncia. Direi di guardare un attimo piazza affari. Telecom più 2%, il gruppo ha avuto il via libera da parte delle autorità di Borsa di Buenos Aires per crescere nella holding di controllo di Telecom Argentina. Buzzi Unicem più 1,52, Autogrill in rialzo di 1 punto e Finmeccanica in rialzo di quasi 1 punto, questi titoli con i progressi più consistenti. Perde terreno Bulgari stamattina, meno 1,89, che non risente dei buoni dati del gruppo francese, del concorrente francese del lusso LVMH, titolo appunto in ribasso di 2 punti. Fiat meno 1,60 e Banco Popolare meno 1,45%. Questi i casi di borsa. Ma noi adesso andiamo al tema di oggi, parliamo di mutui e di polizze assicurative associate. Assicurazioni e mutuo. Due impegni che quasi tutte le famiglie sostengono o hanno sostenuto e che il più delle volte procedono di pari passo. Generalmente al momento della stipula di un mutuo, le banche presentano ai loro clienti delle polizze da sottoscrivere. Oltre alla tradizionale scoppio e incendio sull'immobile, vengono offerte coperture in caso di morte, invalidità permanente o temporanea, disoccupazione. Tutti quegli eventi, insomma, che potrebbero ostacolare il regolare pagamento delle rate. Generalmente sono le banche e non i clienti i beneficiari di questi contratti assicurativi, che vengono stipulati per una durata pari a quella del mutuo e pagati con un unico premio anticipato. Un fattore, quest'ultimo, che ha comportato non pochi problemi alla pratica della portabilità del mutuo. Per queste ragioni, a maggio, l'ISVAP, l'autorità del settore assicurativo, ha emanato un regolamento che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno, che impedisce alle banche di vendere polizze legate a prestiti e mutui in cui figurano come beneficiari gli istituti stessi. Un provvedimento che ha provocato la reazione dell'ABI e di altri intermediari, che si sono opposti con un ricorso al TAR del Lazio. Allora, ci sono già degli ascoltatori che ci stanno scrivendo. Per esempio, uno ci dice: abbassate il tiro, questa pratica vale anche per acquisti di utilitarie da 10.000 euro. Effettivamente noi ci stiamo un po' soffermando sul tema del mutuo, perché ovviamente sono gli importi più importanti anche in termini proprio di polizza, Federica Pezzati, però questo ricorso al TAR contro il regolamento dell'ISVAP effettivamente è stato presentato non solo dall'ABI, quindi dall'Associazione delle Banche Italiane, ma anche dall'Assofin, l'Associazione delle Finanziarie, proprio perché ovviamente sotto l'attenzione, sotto i riflettori dell'ISVAP, ci sono anche finanziamenti di più piccolo importo che spesso richiedono polizze assicurative allegate. Certo, sì, ormai è una costante, le banche e le finanziarie si tutelano in questa maniera e quindi molto spesso ci è stato anche detto in una prova sul campo che è stata realizzata dalla redazione e curata dai miei colleghi Gianfranco Ursino e Luca Davi, che appunto queste polizze sono strettamente vincolanti per il buon esito della pratica. Di fatto vuol dire che se non si fanno difficilmente si può ottenere il mutuo, soprattutto ora che le banche hanno avuto i problemi che hanno avuto nella concessione di prestiti e di mutui il pianeta America ci insegna, no? Cosa è successo, proprio perdita di lavoro, sono tutte situazioni della vita in cui effettivamente è importante essere protetti, però è anche importante che la protezione venga realizzata in maniera idonea, anche perché appunto soprattutto sui prestiti generalmente le persone che vanno a chiedere un prestito hanno proprio una debolezza contrattuale che li contraddistingue, quindi va bene la protezione ma non va bene effettivamente, come dice anche l'authority, approfittarne, tanto più che sia un conflitto di interessi notevole, anche perché di solito le compagnie che propongono le polizze sono dello stesso gruppo, per cui di fatto è un giro di commissioni. Infatti, no, tra l'altro allora proprio hai fatto bene a specificare questi punti, perché il tema della puntata anche non è contestare il fatto che comunque ci si debba proteggere, perché se uno sottoscrive un mutuo che dura 30 anni per un importo di 250.000 euro e improvvisamente, perché abbiamo visto che nella vita può capitare tutto, perde il posto di lavoro, può succedere qualsiasi cosa, quindi certo, è bene che questa protezione ci sia. E sull'ISVA e su questo punto l'ISVAP è molto chiara, e adesso sentiremo la dottoressa Mazzarella. Il tema è come questi prodotti vengono distribuiti e il conflitto di interessi appunto che gravita intorno a questo sistema. Dottoressa Mazzarella, ho detto delle cose sbagliate? No, infatti volevo fare tre precisazioni. La prima è che lei non ha reso la cosa troppo semplice, l'ha rappresentata in una maniera assolutamente corretta, quindi non carichiamo l'argomento di grandi complessità, perché grandi complessità non ce ne sono. La seconda questione, il nostro provvedimento incide non solo sul mercato dei mutui ma sui finanziamenti in generale, quindi ha una portata ben più ampia di quella circoscritta ai soli mutui. Il terzo problema e la terza precisazione è che noi non abbiamo vietato alle banche di collocare polizze. Noi abbiamo, avendo individuato una situazione di conflitto di interesse, perché spesso e volentieri le coperture che vengono offerte dalle banche che si servono delle compagnie che appartengono allo stesso gruppo. Quindi, ravvedendo un conflitto di interesse, noi diciamo che la banca non può svolgere scusi, nello stesso momento il ruolo di beneficiaria della polizza e anche attività di intermediazione percependo provvigioni molto consistenti. Certo, quindi e in sostanza... volevo sottolineare una cosa, sicuramente, quindi non vorrei che ci fosse l'impressione che noi diciamo che queste coperture non servono, tutt'altro, queste coperture sono utilissime perché sono anche uno strumento di mitigazione del rischio e concorrono a contenere il costo del finanziamento o del mutuo. Il vero problema quindi non è l'utilità, che non viene assolutamente messa in dubbio, tutt'altro, ma il problema è quello della sostenibilità del costo. Che tra l'altro è enorme e tante volte dipende anche un po' dalla modalità con cui la banca ti chiede di pagare i premi, perché Federica, ci sono banche che ti chiedono di erogarlo tutto direttamente alla stipula di mutuo e qua stiamo parlando di qualcosa come 8-10 mila euro che appunto il sottoscrittore si trova... se lo ritrova il giorno del rogito, per cui dice, ma insomma, da dove ti tiro fuori anche questi soldi, prima cosa, oppure può essere magari spalmato durante il corso del finanziamento e qua ovviamente poi c'è tutta la polemica relativamente agli oneri intorno a questo, a questa modalità. Sì, perché innanzitutto diciamo che il Plus ha fatto proprio un giro sul campo per vedere che cosa si poteva risparmiare anche andando fuori dalle mura bancarie, quindi per dire, chi si vuole tutelare dal rischio premorienza può fare una temporanea casomorte fuori dalla banca e risparmiare anche la metà del premio pagato, quindi, e poi se uno deve cambiare mutuo in questo modo ha una polizza intestata a sé di cui beneficeranno gli eredi e in quel modo è coperto in un certo senso, per cui fuori con più concorrenza sicuramente ci potrà essere un maggiore risparmio, questa è la prima cosa da dire. Per quanto riguarda la rateizzazione, è senz'altro una cosa da valutare, e soprattutto è da valutare il fatto che molte banche per far fronte al premio hanno proposto un finanziamento e sul finanziamento stesso ovviamente, non essendo un finanziamento ipotecario, chiedevano interessi anche abbastanza alti. Sì. Quindi diciamo che la cosa che bisogna fare quando si chiede un mutuo, un prestito, è valutare bene anche tutti questi aspetti. Ribadiamo appunto se si ha il potere contrattuale per discutere, perché quella è un'altra cosa. E insomma, noi oggi abbiamo sollevato l'attenzione, per cui che se ci fosse qualcuno che si sta accingendo a sottoscrivere un mutuo e questo problema non se lo ero posto, sappiate che magari il direttore di banca con il quale state andando a negoziare per le migliori condizioni del mutuo potrebbe anche non dirvelo che c'è questa polizza e ve la ritrovate nella giornata del rogito, per cui magari cercate voi di anticipare l'argomento e di discuterne con largo anticipo e di negoziare eventualmente, anche se questa polizza appunto va fatta, le migliori condizioni possibili. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Devo andare in pausa, ma alla ripresa sentiremo subito Luigino da Treviso, a tra poco. E allora, come ci aspettavamo, stamattina l'argomento ha suscitato un bel interesse da parte dei nostri ascoltatori che hanno ricordato la giornata in cui hanno sottoscritto il mutuo davanti al direttore di banca e, sottoscrivendo questo contratto, si sono ritrovati anche a doverne sottoscrivere uno parallelo, cioè la polizza assicurativa di protezione, naturalmente, qualora si verificasse un caso disatteso da lì in avanti. In sostanza la banca dice: io devo proteggermi, per cui firma questa polizza. Qualora tu perdessi il posto di lavoro e magari ti ritrovassi nelle condizioni di non potermi più rimborsare il prestito che ti sto facendo, allora noi ci tuteliamo. Il tema è proprio questo, è una situazione che è stata sollevata già da tempo dall'ISVAP, dall'autorità di controllo sul mercato assicurativo, che contesta al sistema bancario non il fatto che chieda alla clientela di sottoscrivere queste polizze, perché è una procedura assolutamente corretta, ma la modalità con cui queste polizze vengono distribuite e il fatto che appunto le beneficiarie di queste polizze non siano i contratti, ma le stesse banche. E tra l'altro questo è un punto sul quale voleva intervenire Luigino da Treviso, credo. Luigino, assicuratore, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, pronto? Sì, ci siamo, Luigino, no. Dica. Allora, io voglio appunto sottolineare questo problema, perché normalmente il beneficiario di queste coperture è la banca stessa, ma parlando di polizze temporanee caso morte, semplicemente, tantissime sono fatte a premio costante e quindi a capitale costante. Di conseguenza il beneficiario della banca, anche il penultimo mese della garanzia, è beneficiario dell'intero ammontare del mutuo, non il contraente come dovrebbe essere giusto. E infatti questo è un punto sul quale l'ISVAP sta cercando di fare degli accertamenti, mi pare, dottoressa Mazzarella. Aveva ragione l'ascoltatore? Sì, ho sentito. Guardi, il fatto è questo. Noi non contestiamo che la banca sia beneficiaria, perché è possibile, non è neanche questo, è una delle possibilità previste nell'ambito del contratto. Il problema è quando la banca accumula entrambe le figure di beneficiario e di intermediario, perché il fatto che la banca sia beneficiaria, per esempio nel caso di una temporanea caso morte, è, diciamo, è una prassi ed è una procedura corretta, in quanto consente alla banca di non sopportare il rischio di premorienza dell'assicurato, di colui che ha ricevuto il mutuo, e questo si riflette anche sul costo del finanziamento. E quindi praticamente allora qual è il punto? Allora io vado in banca, ho chiesto un mutuo di 150.000 euro, arrivo e la banca mi chiede di sottoscrivere questa polizza. Qual è il punto che contestate? Tanto ecco, per la prima cosa che bisogna fare anzitutto è capire effettivamente, e su questo siamo intervenuti nuovamente con il regolamento, quello di rendere in chiaro quant'è la parte di premio che viene investita per questa copertura caso morte e quant'è la provvigione che viene data all'intermediario. Quindi capire se c'è una polizza all'esterno del perimetro dove il sottoscrittore si trova in quel momento, quindi andare a cercare una copertura che offra le medesime garanzie di cui la banca ha bisogno ad un costo con una provvigione più contenuta. Quindi perché potrebbe essere, ecco, perché quello è, come dire, non dico un costo occulto perché mi viene anche un termine che forse non va bene, però potrebbe essere che io pago per coprirmi un premio teorico, ammettiamo, la butto lì, dottoressa Mazzarella, di 8.000 euro e magari poi nel momento in cui mi ritrovo a dover esercitare il diritto di questa polizza, che questa polizza mi conferisce, scopro di essere coperta per 5.000 euro? No, quello che succede è quello che è emerso da un'indagine che abbiamo fatto di recente, che queste provvigioni che vengono pagate dal sottoscrittore del mutuo alla banca sono molto elevate. Lei l'ha buttata lì, ma è un esempio calzante. Facciamo un'ipotesi di una temporanea caso morte per un finanziamento di 200.000 euro. Prendiamo il caso di un assicurato maschio di 40 anni, la durata del mutuo è di 20 anni. Le temporanee caso morte, cosa abbiamo visto? Per esempio, per prendere un valore medio, un premio richiesto di 8.100 euro, le provvigioni pagate all'intermediario valgono 3.400 euro, cioè il 42% dell'importo della polizza. Quindi noi quello che diciamo è andate a cercare delle coperture che possano comportare un costo più contenuto per l'intermediario, perché la domanda che noi facevamo alle banche era, a fronte di 3.400 euro, qual è il servizio che viene reso all'assicurato, che cos'è il servizio che giustifica un tale livello di provvigione? Benissimo, perché io volevo capire effettivamente che cosa l'ISVAP contestasse, ma se poi comunque il sottoscrittore, dottoressa Mazzarella, è soddisfatto del servizio reso, perché a voi non sta bene che questa retrocessione sia così ampia? Perché noi diciamo questo? Se andiamo a vedere che cosa succede nel mercato, queste coperture di queste temporanee caso morte sono delle polizze solitamente collettive, quindi c'è un'adesione a una polizza collettiva. La polizza collettiva per definizione dovrebbe costar meno, perché non è tagliata sulla specifica caratteristica dell'assicurato, ma opera una mutualità all'interno di una collettività. Che cosa abbiamo riscontrato sempre dalla nostra indagine? Che quando si tratta di polizze collettive, il livello provvigionale che dovrebbe essere, quindi il costo complessivo per l'assicurato che dovrebbe essere più basso, è invece molto più alto. Quindi se prendiamo il caso di una polizza temporanea caso morte individuale, il costo medio della provvigione è molto molto più basso rispetto a quello di una collettiva. Quindi in sostanza è questo caricamento che... le dico per darle delle cifre, in una individuale un valore medio dell'intermediazione bancaria è del 12%, in una collettiva sempre intermediata da una banca arriviamo al 52%, quindi diciamo, ma qual è il motivo per il quale si passa dal 12 al 52? Dovrebbe essere l'inverso, perché una individuale è tagliata esattamente sulle caratteristiche del soggetto di cui stiamo parlando. Allora, quello che non abbiamo ricordato fino a questo momento e che non è esattamente irrilevante ai fini della discussione che stiamo facendo oggi è che la questione che ha portato al polverone non è tanto legata al fatto che la banca ti chiede di fare la polizza per tutelare anche se stessa da eventuali disavventure dell'intestatario del mutuo, ma la questione è che quando è arrivata 3 anni fa la portabilità dei mutui di Bersani, molte banche ostacolavano il trasferimento del mutuo Federica con la scusa della polizza associata. Quindi dicevano in sostanza, sì, tu vai, scegliti pure un'altra banca, banca, se trovi un mutuo più conveniente, sappi che però da noi non ti puoi sganciare perché c'è la polizza. Certo, infatti. Infatti in un primo momento proprio il presidente dell'ISVAP ha sollevato il problema della portabilità quando si è visto che appunto non funzionava anche per questo problema delle polizze legate ai prestiti, e di conseguenza il mercato in un primo momento ha risposto con una sorta di autoregolamentazione tra ANIA e ABI, in cui appunto c'era una specie di protocollo che dovevano seguire le banche per venire fuori da questa situazione. Si prevedeva ad esempio che non dovevano più esserci ostacoli alla portabilità, quindi c'era tutta una procedura per evitare l'insorgenza di questi problemi. Purtroppo però, come ha rilevato anche la stessa ISVAP, questa autoregolamentazione non è stata molto, molto seguita dalle banche, e di conseguenza penso che l'authority sia intervenuto proprio per questo, perché nonostante ci fosse un'autoregolamentazione approvata anche dall'authority stessa, all'impegno che era solo formale poi non è stato prontamente calato nella pratica, e quindi penso che l'authority sia intervenuta in questa maniera abbastanza pesante anche per quello. Dottoressa Mazzarella, diceva Federica Pezzatti, l'authority è intervenuta in maniera anche abbastanza pesante. Secondo il giudizio dell'ABI, anche di Assofin, l'associazione del credito al consumo, e anche dei principali gruppi del settore, Unicredit, Intesa San Paolo, perché tutti questi soggetti poi hanno fatto il ricorso al TAR, per qualcuno avete un po' esuberato dalle vostre prerogative. No, questo ovviamente è un punto di vista, è legittimo assolutamente. Hanno ritenuto opportuno ricorrere al TAR, ieri c'è stata proprio una discussione, l'udienza del TAR, aspettiamo di sapere quale sarà la decisione finale. Notizie non ce ne sono, insomma. È una questione molto complessa da prendere in esame, secondo lei? Quanto ci metterà il TAR a darci qualche notizia? Ma guardi, non lo so, io spero che entro il mese si possa avere un risultato definitivo sul quale muoversi. Certo. Anche perché poi se no il primo dicembre scatta tutto il regolamento, giusto? Sì, questo regolamento entra in vigore il primo dicembre, quindi le banche e tutti coloro che operano in questo mercato si dovranno adeguare entro il primo. Non è che il ricorso al TAR ha congelato anche l'entrata in vigore in qualche maniera, o la congelerà? No, niente. No, allora, sentiamo Umberto dalla provincia di Venezia, prima di sentire suggerimenti per chi è in viaggio, sentiamo la domanda di questo ascoltatore. Sì, salve, buongiorno, saluto a tutti. Grazie. E complimenti per la trasmissione di cuore, perché è veramente sempre molto molto utile. Benissimo. Venendo a me, perdoni, volevo capire una cosa. Ho stipulato un mutuo 2 anni e mezzo fa, e naturalmente con l'assicurazione. Dopo 6 mesi sono rientrato parzialmente del mutuo. Sì, cioè lo ha praticamente rimborsato in una parte? Ok. Beh, che fortuna. 30%. Si è tolto sto fardello, Umberto, anch'io quanto vorrei togliermi di mezzo il mio. Come tutti. Certo, ci dica. E adesso mi trovo in una situazione che, sfortunatamente per me, ho perso il lavoro. Sì. L'assicurazione mi ha chiesto il piano di ammortamento, perché naturalmente pagherà lei per i 10 mesi, insomma, che è come è da contratto. Volevo capire una cosa, io però ho assicurato una cifra ipoteticamente attorno ai 100 e ho restituito subito dopo 6 mesi una cifra ipoteticamente attorno ai 40, quindi ho ancora un 60 circa. 60.000 euro di credito, ecco. Residuo, sì, di debito. Loro adesso pagano però la mia rata, che è sui 60 e non sui 100, e io però l'assicurazione l'ho pagata sui 100. E certo, lei dice, insomma, chi mi rifonde di quella parte? Umberto, questo è un bel caso. Perché, insomma, magari, sì. Anche perché in caso di morte invece loro mi ridarebbero tutti i 100, cioè non a me naturalmente, certo. Ma ai miei eredi pagherebbero i 60 di mutuo restante che ho con la banca. E insomma, 40, lei vorrebbe essere rimborsato o risarcito, chiamiamola come vogliamo, per la cifra che teoricamente pagava già dall'inizio. Quindi avere qualcosa in più. Non l'ho usufruita, ma solo per 6 mesi. Umberto, poi dopo sono rientrato. Abbiamo capito perfettamente. Suggerimenti per chi è in viaggio? Boh, adesso magari stimoliamo la dottoressa Mazzarella su questo caso, che è abbastanza originale anche rispetto al tema che stiamo affrontando, ma forse non molto. Questo per fare capire ulteriormente quanto sia complicato questo mondo. A tra poco. Dottoressa Mazzarella, le sembra pertinente la richiesta che fa Umberto della provincia di Venezia? Assolutamente, richiesta pertinente. Ah. Allora, guardi, la persona che ha telefonato dovrebbe far questo, visto che il contraente della copertura della polizza assicurativa è la banca e lui ha aderito ad una polizza collettiva, è il contraente stesso che deve chiedere alla compagnia di assicurazione la revisione del piano di ammortamento, perché il debito residuo si è modificato. Quindi è la stessa banca che avrebbe dovuto, la compagnia, fino a che non riceve una comunicazione dalla banca, non sa ovviamente che l'importo sul quale è stata sottoscritta una polizza assicurativa è mutato, se non ha notizia del piano di ammortamento originario, poiché si sono modificati i termini contrattuali, quindi il debito residuo si è ridotto, la banca avrebbe dovuto fare una comunicazione alla compagnia di assicurazione per la revisione del piano di ammortamento. E quindi allora l'ascoltatore, se non fosse riuscito a prendere appunti adesso delle indicazioni fornitici dalla dottoressa Mazzarella, si può tra un paio d'ore scaricare la puntata dal sito di Radio 24 e quindi se le trascrive e magari poi chiede lumi più dettagliati sia alla compagnia che alla banca. Allora, poi c'è un altro ascoltatore che ci ha scritto, Giuseppe, che ci chiede: mi potreste dare consigli utili relativamente a queste polizze, a cosa devo stare attento, cosa distinguere nella polizza che non sia un capestro per me? Adesso magari prima di concludere andremo anche a 2-3 dritte pratiche, però sentirei anche qualche altro ascoltatore, perché questo lo volevo, brava Gaia. Paolo è un direttore di banca e per lavoro dice colloca proprio queste polizze e dice che abbiamo detto delle cose inesatte. Paolo, buongiorno, dove l'abbiamo offesa? Buongiorno a voi. Allora... Oh no, non l'abbiamo interrotto noi, lo giuro. Adesso lo recuperiamo al volo. Sentiamo Marco da Pavia. Marco? Sì, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Ma volevo fare una considerazione, però ascoltando tutto il vostro programma forse sarebbe opportuno farne un'altra. Io ritengo che queste polizze, per l'esperienza che abbiamo vissuto in famiglia, possono essere equiparate delle tangenti che le banche chiedono per erogare. Marco, già non ho chiamato l'ABI Asso, fine non mi metta nei guai ulteriormente. No, bene. Però comunque usiamo un termine un po' più delicato. Non so come definirla. Un quid pluris sul finanziamento che ti viene concesso, un aumento dei tassi, come si era già verificato quando faceva sottoscrivere i contratti di copertura con i derivati. Ah, sì, agli pubblici, piuttosto stesso discorso. Beh, fate un bel parallelo azzardato, Marco, insomma, lei, ma perché ci ha citato l'esperienza della sua famiglia? Che cosa le è successo, se le posso chiedere? Ma perché mia sorella aveva richiesto un finanziamento per un acquisto di una prima casa, garantito da ipoteca di primo grado, appartamento in Milano, operazione perfetta, non sovrastimato l'immobile, ristrutturato, cioè acquistato e ristrutturato a nostre spese, di conseguenza la cifra chiesta per il mutuo serviva soltanto per pagare il venditore e la banca era ampiamente garantita solamente dall'immobile. Ciò nonostante hanno richiesto in maniera assillante anche la sottoscrizione di questo contratto di assicurativo, mi sarebbe una farmacista dipendente con stipendio fisso. Ovviamente. E che importo, importo, Marco, era rispetto al valore dell'abitazione, rispetto anzi al mutuo erogato? Guardi, alla fine mi sembra fosse il solito discorso del premio da pagare in un'unica soluzione di 5.000 euro, mi sembra, su un finanziamento richiesto di 130. Ho capito. Va bene, Marco. Non è poco. No, assolutamente, si figuri, infatti, anche se si potesse spuntare qualcosa di meglio sul mercato. Comunque, abbiamo capito le sue osservazioni e adesso io vado a Paolo da Milano, allora, che queste polizze le fa sottoscrivere ai suoi clienti. Ci dica un po' che cosa abbiamo detto di inesatto, perché insomma molti hanno la percezione di essere un po' assillati da questa richiesta e io le ribadisco, Paolo, io me la sono trovata pur facendo salvadanaio da 7 anni, la casa l'ho comprata un po' prima e io durante tutta la trattativa con l'agente immobiliare, con la banca e con tutto, di queste polizze nessuno mi aveva detto niente e il giorno dell'erogito è diventata obbligatoria, altrimenti io non potevo ricevere il finanziamento. A me questo è successo e io non le sto dicendo niente di credo nuovo. Ma per... no, la prima cosa, innanzitutto buongiorno, caduta linea prima, mi dispiace. Allora, innanzitutto complimenti perché la trasmissione è molto interessante, ma il fatto di dire che sono state date le informazioni imprecise è dato da queste considerazioni. Allora, prima di tutto quello che ha detto lei è un comportamento scorretto, quello che ha descritto, certo, che non ha nulla a che vedere con il collocamento delle polizze. Io le posso dire, per quanto mi riguarda, il concetto è questo, ha detto anche la dottoressa rappresentante dell'ISVAP, sì, che peraltro tutt'altro che sconsigliabili queste polizze perché danno, certo, copertura. Ma su punto questo primo, non è vero che la copertura è per la banca ma per il cliente, perché è del tutto evidente che se io non mi trovo nella condizione, io con moglie e due figli mi trovo nella condizione di non poter più pagare il mutuo, avere una polizza che me lo copre probabilmente mi mette in una situazione di serenità decisamente migliore. Così pure il caso morte e il caso invalidità permanente. Per quanto mi riguarda, e chiedo conferma all'ISVAP se può dare conforto a quello che sto per dire, io ho fatto fare questo tipo di verifica ai miei clienti perché voglio avere un rapporto nel tempo. Dico, andate a farvi fare un preventivo da una qualsiasi assicurazione, sceglietela voi, il vostro assicuratore di fiducia, con caso morte, invalidità permanente, perdita di posti di lavoro, con la vostra età, la vostra età di quindi fatta su misura per l'appunto e non collettiva. E quello che ho potuto verificare è che sono molto, ma molto più care. Certo. Poi, detto questo, ma si vede che la sua banca fa una buona pratica commerciale, Paolo, ma questo va benissimo, che è un mercato che funziona, va bene. Ma le dirò di più, quello che trovo inesatto era la prima cosa, quella di dire che è a favore della banca, perché in effetti sono io che ne usufruisco in quanto mutuatario. Seconda cosa, il fatto di dire ma la banca percepisce provvigione, io faccio questa domanda, ma la polizza che vado eventualmente a fare con l'assicuratore esterno alla banca non lavora gratis questo signore, certo, e presumo che prenda lo stesso tipo di provvigione che prende la banca, semplicemente che la banca come collocatore prende questa provvigione. Ripeto, chiedo alla dottoressa Mazzarella di rispondere, certo, se è vero che costa molto meno, semplicemente per il fatto che essendo case interne al gruppo bancario ovviamente hanno un ristorno differente e quindi benissimo, da lì lo sconto, da lì il costo minore del costo complessivo della polizza, non della provvigione. Paolo, secondo me il ricorso al TAR l'ha scritto lei, guardi, ne sono quasi certo. No, ma devo dire che sono molto toccato perché la sento e la ringrazio anche per la chiarezza per cui ci ha fatto capire anche l'altra parte della medaglia. Dottoressa Mazzarella. Allora, guardi, questi interventi sono utili così facciamo chiarezza. Il nostro problema non è che chi svolge un lavoro di intermediazione non debba essere remunerato, ci mancherebbe altro. Il problema è questo, che la situazione che ha descritto la persona che è intervenuta adesso è una situazione virtuosa sulla quale noi non avremmo assolutamente nulla da dire. Quindi non è detto che quando si parla di medi ovviamente non ci siano situazioni di valori medi, non ci siano situazioni virtuose, ben vengano. Noi a questo vogliamo arrivare, questo è il nostro obiettivo. E insomma, vorrebbe che il comportamento di Paolo sia diffuso su tutto il territorio, insomma, su tutte le filiali, certo. Tutte le pratiche, esatto. Allora, dalla nostra indagine che cosa emerge? Ovviamente quando si colloca una collettiva noi ci aspettiamo che il costo di questa polizza collettiva sia più basso. Perché? Perché non è come farsi un abito su misura piuttosto che andare a cercare un prodotto standardizzato sul mercato. Quindi una collettiva dovrebbe per definizione costare meno di una individuale. Dalla nostra indagine è emerso esattamente l'opposto. L'aliquota provvigionale media per una polizza collettiva percepita da una banca e degli intermediari finanziari varia tra il 51 e il 55%. Benissimo, dottoressa Mazzarella, sente la sigla, devo chiudere. Come faccio io a riconoscere una collettiva da una individuale? Me lo deve dire la banca? Certamente. E quando lei prima parlava di consigli, e così vado veloce, la cosa che bisogna andare a vedere che ci sia piena trasparenza del costo della polizza, capire quanto è la provvigione percepita dall'intermediario, che ci sia nell'ambito del contratto la precisazione che in caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento ci sarà restituzione della parte del premio non goduta, incluse le provvigioni. Benissimo. Quindi la raccomandazione è leggete bene i contratti, ecco, prima di sottoscrivere. Grazie alla dottoressa Flavia Mazzarella dell'ISVAP, Federica Pezzatti di Plus24. Salvadanaio torna domani, con voi ci sarà Valeria De Rosa perché domani vado a Prato e domani sera ci sentiamo da lì per Focus Economia. Buona giornata a tutti.